Rassegna Stampa Europa. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, ben ritrovati per la nostra rassegna stampa europea. Oggi partiamo da quello che è uno degli argomenti che viene stato trattato in questa settimana e credo che lo sarà ancora per molto, perché la questione non è risolta e riguarda più stati, e sappiamo che appunto quando ci sono più stati che devono in qualche modo mettersi d'accordo va tutto per le lunghe. Parliamo naturalmente della questione PRISM e di quello che è stato già definito lo scandalo PRISM, cioè questa riforma delle norme dell'Unione Europea sui dati personali. Fosse arrivata forse in un altro momento, senza contemporaneamente avere lo scandalo sulla mancata privacy negli Stati Uniti di tutti i dati che girano in rete soprattutto, forse di questa riforma dell'Unione Europea, in atto nell'Unione Europea, si sarebbe parlato un po' di meno. Così appunto non è stato, ne parla per esempio Libération. In un articolo di Camille Guévadon si scrive: raramente si è visto un contrasto di passioni paragonabile a quello che accompagna il progetto di riforma della politica europea in materia di dati personali. Da un lato ci sono le ONG e le associazioni di utenti che incollano immagini di uomini svestiti su cartoline postali con la scritta "cittadini a nudo" per difendere la protezione della vita privata online, e chiedono di sommergere con le suddette cartoline i parlamentari europei per tenerli lontani dalle lobby. Dall'altro ci sono le più potenti industrie del web che implorano flessibilità quando manipolano i dati personali di milioni di internauti. Nel mezzo, con la loro piccola bandierina, ci sono gli archivisti e genealogisti che temono che il diritto all'oblio comprometta la possibilità di conservare la memoria collettiva. La posta in gioco è enorme, scrive Libération, l'articolo completo lo trovate anche su internet. La riforma allo studio dovrà sostituire la direttiva europea sui dati personali, che risale al 95. Quindi chiaramente era una riforma che andava fatta al 95 di questi tempi. Far passare dal 95 a oggi, sono passati 18 anni, è un tempo enorme, perché di mezzo c'è stato naturalmente lo sviluppo esponenziale di internet. A proposito di questa potenza e della volontà, degli scopi, degli obiettivi che hanno le grandi aziende della tecnologia, vi segnalo, di cui parlava Libération, vi segnalo un box all'interno di un grande articolo oggi pubblicato, scusate, ieri su Financial Times, che riguarda proprio come queste grandi aziende della tecnologia, non faccio nomi, ma anzi facciamoli, cioè da Google a tutti gli altri, Microsoft, Yahoo, tutti questi a cui noi diamo volontariamente tanti dei nostri dati, o magari non volontariamente, e che poi devono gestirli, devono proteggerli secondo alcuni. Ecco, queste aziende si stanno organizzando per avere dei lobbisti, un po' sullo stampo di quelli che popolano Washington, ai quali così tanti film sono stati dedicati, e si stanno organizzando per avere lo stesso tipo di struttura a Bruxelles. E questo è, ne parla Financial Times proprio in una pagina intera che è dedicata al crescere delle lobby a Bruxelles, e poi c'è un box dove si spiega che i parlamentari del Parlamento Europeo, che sappiamo è un Parlamento che praticamente non legifera, che però ha sicuramente un ruolo consultivo, quindi questa nuova legge, questa nuova direttiva, in questa nuova direttiva europea il Parlamento Europeo può avere un ruolo. Il Parlamento Europeo sembra appunto rivoltarsi contro questa direzione che sta prendendo l'eventuale nuova legislazione. E siccome nell'articolo di Libération la giornalista citava appunto le preoccupazioni dei genealogisti, vi segnalo da un quotidiano di Helsinki, Helsingin Sanomat si chiama, e il titolo è proprio "Un ostacolo imprevisto". La nuova regolamentazione in materia di protezione dei dati personali, scrive il quotidiano finlandese, rischia di compromettere le ricerche genealogiche. La normativa obbligherà chiunque effettui ricerche genealogiche a ottenere dai soggetti dell'indagine il consenso all'utilizzo dei dati privati. Ciò significa che i genealogisti dovranno chiedere un permesso scritto a tutte le persone viventi cui nome compare nei registri dello Stato civile, e questo potrebbe riguardare migliaia di persone. Improvvisamente, scrive questo quotidiano Helsingin Sanomat, le ricerche future potrebbero essere limitate ai soli antenati deceduti, che ovviamente non possono dare il permesso né negarlo. Passiamo a un altro argomento, che è quello dell'allargamento dell'Unione Europea. La settimana scorsa abbiamo parlato, e se c'è tempo ne parleremo anche oggi, dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea della Turchia. C'è questo articolo invece pubblicato da un quotidiano croato che parla appunto di che cosa potrebbe cambiare per i croati dopo l'ingresso nell'Unione Europea. Il quotidiano si chiama Novi List e ha fatto questa inchiesta, come a volte spesso si fa anche alla televisione, si va per le strade, si chiede alla gente cosa ne pensate, possono venire dei pezzi interessanti, secondo me, a seconda di come poi vengono assemblati o raccontati, e appunto questo quotidiano Novi List lo ha chiesto agli abitanti di Rijeka, la terza città del paese. Cito soltanto una piccola parte. Per esempio, Dravo Ciro Kovacic, ex leggenda della pallanuoto croata, dice: "I primi 2 anni saranno peggiori di adesso, ma l'adesione non poteva essere evitata. Sarebbe assurdo immaginare un paese piccolo come la Croazia fuori dall'Unione Europea. Il compito che ci aspetta sarà duro, siamo lontani dal modello ideale del cittadino europeo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. I croati devono perciò adattarsi alle abitudini del mercato europeo, che crolla sotto la pressione di una disoccupazione record, soprattutto tra i giovani." Vi cito ancora una voce, è quella di Hasna Jukic, che invece non ha un passato famoso, è una, diciamo, semplice, tra virgolette, è una negoziante, ha un negozio sulla piazza principale di Rijeka, questa che è la terza città del paese, e anche lei aspetta questa adesione con prudenza. L'aumento dei prezzi è già evidente, ancora prima dell'adesione della Croazia. Dice, virgolettato: "Sono convinta che dopo sarà peggio. Tutti quelli che dicono il contrario raccontano favole. A caso, due ragazzi che ben presto lasceranno l'università per cercare un lavoro. Ho paura che non ce ne sarà." Asna commenta così la scomparsa delle frontiere: "Se avessi del denaro starei già facendo shopping a Trieste, ma visto che di soldi non ce ne sono, tutto questo mi lascia indifferente." E siccome è stato citato il tema della disoccupazione, cito brevemente un articolo da un quotidiano danese che si chiama Berlingske, e il titolo è: "Vittime della crisi, 5.600.000 giovani disoccupati nell'Unione Europea." Ne abbiamo parlato tanto nelle scorse settimane, è sicuramente un tema, quello della disoccupazione giovanile, cioè un po' del rubare il futuro ai giovani, che è molto importante, che io cerco sempre di, anche se abbiamo detto tante volte, è difficile definire un disoccupato quando è giovane, perché ci sono quelli che lavorano, quelli che non lavorano perché studiano, però di fatto questo numero è un numero certificato dall'Eurostat, quindi sono persone che non stanno studiando ma non hanno neanche l'opportunità di lavorare. Scrive il quotidiano danese: "A 1 anno dall'adozione da parte dell'Unione Europea del patto per la crescita e l'impiego, la disoccupazione ha raggiunto nuovi record. 5,6 milioni di giovani europei sono senza lavoro, l'equivalente dell'intera popolazione danese. I capi di Stato e di governo vogliono aiutare i giovani, ma gli esperti temono una nuova battaglia inutile." Sapete che, aggiungo io, proprio nei giorni scorsi è stata adottata questa serie di misure, e il budget è da 6 miliardi di euro per aiutare l'impiego da qui al 2016, ma naturalmente è molto difficile, l'abbiamo detto anche la scorsa volta, e non è una di quelle cose che l'occupazione si crea per ricetta o per legge. Se c'è crisi economica e manca la domanda, è molto difficile per le aziende assumere. Abbiamo visto, per esempio, la soluzione adottata da alcuni governi, che è quella di dare incentivi per assumere ai datori di lavoro che assumono giovani, però anche in questo caso il sussidiare le assunzioni è sempre un rischio e non necessariamente una buona misura a medio-lungo termine. Torniamo, perché l'abbiamo parlato prima, dei negoziati per l'adesione della Turchia all'Unione Europea. C'è un articolo del quotidiano Cumhuriyet turco. Il titolo è: "L'Europa non l'ha bevuta." Gli sforzi di Recep Tayyip Erdogan, capo del governo turco, e dei suoi ministri per giustificare la barbarie della polizia nel parco Gezi non hanno prodotto alcun risultato. All'indomani della riunione ad Ankara tra gli ambasciatori dei paesi dell'Unione Europea ed Edegemenin Bagis, ministro degli affari europei e capo negoziatore nel processo di adesione della Turchia, sì, il risultato è appunto deludente. In questo contesto, aggiunge il quotidiano turco, l'UE ha annunciato che avvierà i negoziati di adesione soltanto dopo la pubblicazione del prossimo rapporto annuale della Commissione europea sui progressi della Turchia, e quindi questo non sarà prima del prossimo ottobre. Come abbiamo detto tante volte, questi negoziati possono avere magari delle accelerate, poi possono fermarsi improvvisamente, come sta capitando adesso per tutto quello che succede in Turchia. Vi segnalo poi, invece, cambiamo un po' argomento, quelle che sono le tensioni tra Bruxelles e Parigi su un altro negoziato molto importante. Ne avevamo parlato, credo, 3, 4, forse anche di più, 5 settimane fa, ed era l'avvio dei negoziati per il libero scambio con gli Stati Uniti, che prevedeva che queste nuove leggi fossero applicate a qualsiasi cosa. E Parigi si era opposta, per esempio, a tutto quello che erano i prodotti audiovisivi, perché voleva proteggerli, soprattutto i suoi francesi, ma naturalmente diventa una forma di protezione per tutti i prodotti dell'Unione Europea. E quindi scrive Libération, ma anche Le Figaro, quindi due quotidiani di Parigi, uno molto più conservatore, Le Figaro, e uno molto più a sinistra, Libération, scrivono: tra Parigi e Bruxelles volano gli insulti. Constata Libération, ritornando sulla polemica scoppiata tra Francia e Commissione Europea dopo l'avvio dei negoziati per un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Il 23 giugno il ministro francese dell'Industria, Arnaud Montebourg, ha accusato il presidente della Commissione di essere il carburante del Front National. Scusate se sorrido, ma insomma, quando ci sono queste frasi così ad effetto, forse i politici non si rendono neanche conto che dovrebbero essere i primi a moderare il linguaggio. Comunque, José Manuel Barroso, presidente della Commissione Europea, ha risposto per le rime, sottolineando che certi politici francesi farebbero meglio ad abbandonare l'ambiguità nei confronti dell'Europa e a difenderla dal nazionalismo, dal populismo e dallo sciovinismo. Parole che temo si applicherebbero anche ad alcuni politici italiani che a volte hanno appunto questo atteggiamento ambiguo. Le Figaro, abbiamo detto che di questa questione si sono occupati sia Liberazione che Le Figaro. Vi ho appena citato Liberazione. Le Figaro invece sottolinea che il presidente della Commissione è ormai un bersaglio designato e paga per il disincanto dei francesi nei confronti dell'Europa e per l'incapacità del governo di fare qualcosa per arrestare la crisi. Vi segnalo un ultimo articolo, che in realtà è una questione che viene trattata da tre quotidiani: Le Libre Belgique, che è appunto belga, un sito romeno, hotnews.ro, e Pubblico, che è portoghese, e riguarda una delle più grandi voci di spesa della Commissione Europea, anzi dell'Unione Europea, anzi credo che sia la prima in assoluto, che è quella per l'agricoltura. Si parla da tempo di una riforma della PAC, la famosa politica agricola comune. Forse è arrivato il momento, scrive la Libre Belgique, verso un'agricoltura un po' più verde. E all'annuncio, appunto all'indomani dell'accordo, che è stato il 26 di giugno tra la Commissione, Parlamento e Consiglio Europeo sulla PAC, l'accordo prevede che il budget sia di 30 miliardi di euro, e il 30% dei sussidi saranno dedicati alle misure per la tutela ambientale, come la diversificazione delle colture. Sapete che di fatto l'agricoltura europea è sussidiata, ed è per questo che è così imponente la voce del budget sull'agricoltura. Si sta cercando di cambiare questi sussidi, per esempio, non di toglierli, però per esempio appunto di dirottarli su un'ecosostenibilità, più che magari sul sostenere la produzione di latte o di altre culture o di altri alimenti che potrebbero magari arrivare da altri paesi e ci costerebbero, e costerebbero a tutti meno. Su questo ci sarebbe moltissimo altro da dire, magari ci torniamo sulla PAC, è uno dei temi che mi interessa moltissimo. Vi ringrazio per averci seguiti, vi do appuntamento al sabato prossimo e vi auguro un buon weekend. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.